America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Due notizie che vorrei discutere in questa puntata riguardano eventi, diciamo, naturali. Un evento negativo riguarda gli sviluppi nella Louisiana, gli sviluppi della Marea Nera, l'intervento di nuovo del presidente Obama che parlerà questa sera alla Nazione. L'altro evento positivo che riguarda invece la scoperta in Afghanistan di gigantesche riserve di minerali metalliferi. Il valore stimato di queste riserve è circa 1.000 miliardi di dollari. Ecco, questo potrebbe cambiare drasticamente la situazione politica e militare in Afghanistan, potrebbe cambiare il rapporto di potere fra il presidente Karzai e alcuni dei suoi luogotenenti. Gli Stati Uniti ovviamente sperano che questo nuovo tesoro possa portare un minimo di stabilità sul piano economico. È chiaro che ci vorranno degli anni prima di poter partire, però il semplice fatto di aver recuperato questi giacimenti, quantomeno dal punto di vista teorico, significa che importanti aziende straniere potranno cominciare ad effettuare degli investimenti e dunque portare denaro importante per lo sviluppo del paese. Ricordiamolo, uno dei problemi centrali da risolvere in Afghanistan era proprio quello della corruzione, del traffico di droga, del fatto che in questo paese non c'era assolutamente niente. E dunque si comincia a guardare in avanti, si dice che l'Afghanistan potrebbe diventare l'Arabia Saudita del litio e uno appunto dei metalli, litio, ferro, oro, rame, una gran quantità di risorse naturali che prima non si conoscevano. E dunque lo stesso David Petraeus, il capo dell'intera missione militare in Afghanistan, ha detto che si tratta di un potenziale stupefacente. C'è poi la curiosità di come questa scoperta è stata fatta. Un piccolo gruppo di geologi del Pentagono ha cominciato a studiare alcuni documenti, dati raccolti dagli esperti minerari sovietici durante l'occupazione negli anni '80. Avete sentito il presidente Barack Obama, la sua quarta visita nella regione, il futuro dei pescatori e in forse cambierà un intero modello di vita. Il presidente usa toni allarmistici, non a caso sappiamo che il disastro della Louisiana, della Marea Nera, è il più grave disastro ecologico della storia americana. Da una parte Barack Obama colpisce la British Petroleum, dice che la compagnia petrolifera è responsabile per questo disastro, chiede che la British Petroleum rinunci al suo dividendo, versi questo dividendo, circa 2,5 miliardi di dollari per il trimestre, 10 miliardi di dollari all'anno, in un conto speciale, in un escrow account, un conto blindato. Chiede che ci sia un consiglio ad hoc che gestisca questo conto per poter rimborsare tutti coloro che hanno sofferto di questo disastro. È appoggiato in questo dal Congresso. Una lettera della leadership democratica chiede che in questo conto siano depositati addirittura 20 miliardi di dollari. Il presidente americano però ha degli obiettivi anche di più ampio respiro. Questa notte parlerà dall'ufficio ovale alla Nazione, è il primo discorso dall'ufficio ovale che questo presidente fa alla Nazione. Domani si incontrerà alla Casa Bianca con i vertici della BP per chiedere formalmente le concessioni che abbiamo anticipato. E dunque dietro c'è un disegno anche politico piuttosto importante che guarda a novembre. Il presidente ha detto chiaramente che questo disastro è equivalente a quello che ci fu con l'attacco dell'11 settembre. Così come l'attacco dell'11 settembre ha cambiato drasticamente il modello di sicurezza per gli Stati Uniti, ecco, questo disastro naturale cambierà la politica energetica. E dunque Barack Obama presto partirà all'attacco dei repubblicani con il suo progetto di legge per una riforma energetica. Vediamo cosa risponde la BP. La risposta è molto semplice. La British Petroleum chiede tempo. È disponibile a non versare il dividendo, ma a depositarlo in questo escrow account. Chiede però che il dividendo sia soltanto congelato. Perché? Perché a fronte della BP non ci sono azionisti miliardari, ma ci sono una gran quantità di pensionati, di fondi pensione che vivono del dividendo. E dunque la BP ha le sue ragioni. Ma riuscirà a resistere alle pressioni del presidente americano? Ma non sembra molto facile. Tanto più che dal Congresso c'è stato un ulteriore sviluppo. Il presidente della commissione d'inchiesta, Waxman, ha inviato una lettera alla BP dicendo che sono state commesse delle gravissime manchevolezze pochi giorni prima l'esplosione. Perché? Per risparmiare. La partita è dunque complicata. Di tutto questo ne parliamo con Claudio Gatti, nostro inviato del Sole 24 Ore qui in America, appena tornato dalla regione. Claudio, cosa ci racconti del Golfo? Si vedono queste squadre di persone con rastrelli e pale, raccolgono questo catrame, lo mettono in sacchetti di plastica bianchi che poi vengono accumulati, e ogni mezz'ora, tre quarti d'ora arriva un bulldozer che li raccoglie e li porta via. Qual è l'atmosfera fra la popolazione, fra i locali? A Grand Isle tutti i pescatori, i proprietari di barche sono di fatto sotto contratto con la BP. Per quello che riguarda il turismo invece c'è un grosso problema, perché anziché i turisti hanno un migliaio di persone pagate da BP per fare la pulizia, ma sono persone che non consumano. E quindi la BP domina in qualche modo, quindi ha ragione Obama a prendersela così con la BP, oppure forse c'è qualche scusa per questa compagnia? A Grand Isle si ha proprio nettamente l'impressione che sia stata occupata di fatto da BP. Se si va al centro di informazione per i giornalisti c'è scritto BP Information. Se si va sulla spiaggia, come si tenta di attraversare la barriera dei tubolari, arrivano immediatamente fuori strade con scritto BP Safety. L'impressione che hanno tutti è che sia la BP in controllo della situazione. Ecco, tu hai visitato anche un centro per la ripulitura dei pellicani. Com'era? I pellicani bruni sono l'uccello dello stato della Louisiana, anche rappresentato dalla bandiera. Ce n'erano circa 500, li sistemano, prendono la temperatura, li infilano enormi siringhe nel becco per reidratarli, perché spesso sono disidratati. E poi come in una catena di montaggio li mettono in una serie di catini di alluminio dove vengono lavati con detersivo, del detergente liquido che fa sciogliere l'olio e che quindi li ripulisce. L'operazione dura circa 45 minuti e gli uccelli sono stranamente tranquilli. Perché assaporano la libertà, forse, o no? Non lo so, certo è che li tengono dopo averli lavati una decina di giorni e poi per liberarli li portano via aerea sulla costa atlantica della Florida, dove vengono rilasciati. Quindi la BP pagherà anche il conto del biglietto aereo dei pellicani, insomma. Certamente, chissà se in prima classe. Grazie Claudio, alla prossima. Prego. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Li troverete su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. It's the last chance alone for the United States. Ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo in area di mondiali di calcio, grande coppa del mondo. Un cantante americano, Rivers Cuomo, nessuna parentela con i Cuomo di New York, ha scritto un inno nazionale per la squadra di calcio. E un cantante rock di Los Angeles fa parte di una band che si chiama Weezer. La canzone si chiama Represent, dedicata alla squadra di calcio americana. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.